Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Continua incessante nella sede, nella sala Montanelli della sede di Corriere Gazzetta dello Sport in via Solferino a Milano. Continua incessante, dicevo, il flusso, insomma, continuano le visite di colleghi, amici, conoscenti, lettori, cittadini che stanno dando il loro ultimo saluto a Candido Cannavò, l'ex direttore della Gazzetta dello Sport, scomparso ieri mattina. E il colore rosa del giornale che ha guidato per 19 anni circonda Cannavò anche in questo momento estremo, sia nelle righe della cravatta, leggo da un'agenzia, indossata sotto l'abito gessato nero, sia nei vasi di fiori intorno al feretro e sullo sfondo di una foto posta su un cavalletto di lui sorridente in una delle ultime edizioni del Giro d'Italia. Si susseguono le visite, ripeto, di persone illustri e persone comuni. Luca di Montezemolo si è commosso dinanzi. Si è commosso in questa sala, è successo a tanti altri, ad Arrigo Sacchi, lo sto leggendo dalle agenzie. Il funerale è stato spostato perché in un primo tempo si era pensato alla chiesa di Piazza Wagner a Milano e poi invece il gran numero di persone atteso a questo ultimo saluto a Candido ha suggerito di fissare la cerimonia nella Basilica di Sant'Ambrogio domani alle 14:45. Ultime notizie di Coppa, prima di arrivare poi ai temi del campionato, su cui come sempre vi esibirete voi, prima ancora di me, con i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24. La Roma, questa è l'ultima agenzia appena battuta, la Roma è appena arrivata a Londra con un leggero ritardo sul previsto, temperature di 10 gradi, sostanzialmente identica a quella che c'era alla partenza romana. È stato designato il portoghese Ben Querensa come arbitro di Chelsea Juventus, mentre a Rosetti è toccato, diciamo pure, l'onore di dirigere Real Madrid Liverpool, uno degli ottavi di finale in programma sempre mercoledì con Calcagno e Copelli in qualità di assistenti. Segnalo che di onore vero e proprio si tratta, in quanto la suggestione per noi italiani evidentemente è in questa triplice sfida tra il calcio italiano e il calcio inglese, ma se la mettiamo sul piano del prestigio, in campo tra Real Madrid e Liverpool ci sono la bellezza di 14 Coppe dei Campioni, le 9 del Real e le 5 del Liverpool. Partiamo proprio da qualche frammento vocale, da qualche intervista, a proposito di questa tripla vigilia che riguarda Inter, Juventus e Roma. Apro sul Manchester City e sul Manchester United e sulla sfida in programma domani sera a San Siro, ecco Mourinho. Adesso è importante pensare solo a Manchester, una partita che io voglio giocare con grande piacere. Non voglio i miei giocatori sotto pressione, non voglio i miei giocatori pensando che negli anni scorsi l'Inter in ottavos di finale del Champions finiva la competizione. Voglio i miei giocatori con grande piacere per giocare questa partita, e la prima cosa che io dirò ai miei giocatori è che ho grandissima fiducia che possiamo farlo. Conosco Manchester dal 2004, Manchester è la miglior squadra del mondo giocando in contropiede. Per giocare contro una squadra che vuole giocare in contropiede, noi dobbiamo essere moltissimi intelligenti in questo senso. In questo momento solo Samuel è l'unico giocatore fortunato che non può sicuramente giocare questa partita. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione, non abbiamo nessuno squalificato, la forma fisica e psicologica è molto forte, sappiamo chi fare in campo, e mi sembra che sì, mi sembra che questa partita arrivi in un momento di gioia, in un momento di entusiasmo, in un momento di grande fiducia, ovviamente anche loro, però mi aspetto una grandissima partita. Senza Samuel, Mourinho sta pensando a come rimescolare la, la difesa, che è lo stesso problema con cui si trova a dover fare i conti Ferguson sull'altro versante, visto che oltre al centrale Vidic squalificato, mancheranno per infortunio gli esterni Neville, West Brown e volendo anche Da Silva. Non solo, si sono regolarmente imbarcati, l'arrivo del Manchester a Milano è atteso a minuti, si sono regolarmente imbarcati Evans e Oshie, che sono già due alternative difensive, ma al momento non si sa se potranno essere in campo e probabilmente Ferguson prenderà una decisione dopo l'ultimo allenamento di stasera sul terreno di San Siro, come prevede il cerimoniale di Coppa. La vigilia della Juventus attesa sul mercoledì sul campo del Chelsea. Sai che devi fare una gara perfetta, perché il Chelsea ha perso l'anno scorso la finale per un dischetto, ha sbagliato John Terry sul dischetto del calcio di rigore, scivolando, per cui è una vincitrice virtuale della Champions League dell'anno scorso, con la rabbia di voler vincerla quest'anno, per cui sappiamo che pur essendo arrivati primi abbiamo preso questo zuccherino come seconda squadra. Però loro sono fortissimi, ma noi ci giocheremo le nostre carte. Quanto alla Roma e alle possibilità che riesca a recuperare Sisinho e Guan, non sono moltissime per quello che riguarda Guan, qualcuna in più probabilmente per Sisinho. Sono valutazioni che Spalletti a sua volta farà nell'ultimo allenamento di stasera a Stamford Bridge sul terreno del Chelsea, nell'ultima data gli Emirates sul terreno dell'Arsenal, perché un po' di confusione, poi essendo tre sfide, tre italiani contro tre inglesi, è inevitabile. Wenger nel frattempo si dice certo, sto leggendo da un'agenzia a sua volta appena uscita, si dice certo che la Roma non giocherà per lo 0-0, non credo che farà una partita all'italiana, ha detto Wenger. Cercheranno anzi di attaccare, perché sanno che un gol in trasferta darebbe loro buone opportunità di qualificazione. Tra i tanti titolari a cui Wenger dovrà rinunciare ci sono gli attaccanti Eduardo e Adebayor e i centrocampisti Fabregas e Diaby. Indisponibile anche Arshavin, il neo acquisto dell'Arsenal, già utilizzato in Europa. Dovremmo essere inappuntabili in difesa, segnare almeno un gol, questo è il piano tattico di Wenger, che insomma, stando perlomeno a queste intenzioni, punta ad un 1-0. Un tempo l'1-0 casalingo non era un grande risultato in vista del ritorno, con l'evoluzione del calcio, con una minore incidenza rispetto a un tempo del fattore campo, progressivamente lo è diventato, e oggi un 1-0 casalingo in partenza è un risultato, se non da firmare, comunque da accettare di buon grado. I primi ascoltatori di oggi, per esempio Marco dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno, signor Granzini. Dica. Volevo sapere cosa ne pensava lei, se ha sentito l'intervista a Sedorf, quando commentava i fischi che erano stati rivolti a lui e a Ancelotti. Io lo penso, come al solito, intelligente, non solo tifoso del Milan, però proprio Sedorf è un grande personaggio che il calcio avrebbe bisogno. E mi è dispiaciuto quando Sconcerti diceva che i calciatori, cioè i tifosi, hanno diritto di fischiare, forse lì offendere anche, perché pagano. Invece Sedorf, facendo il discorso di civiltà, diceva che questi fischi possono, cioè è una cosa assurda, perché te paghi un biglietto per andare a vedere la tua squadra, devi fischiare quando magari lo spettacolo è finito, come fanno a teatro. Purtroppo giustissimo come commento, era un po' lungo, però penso lei, non so se con chi è d'accordo. No, adesso lo sentiamo Sedorf. Tenga conto che a teatro, per la verità, così almeno siamo più documentati, tenga conto che a teatro fischiano anche sul durante, non soltanto alla fine. Il tenore piuttosto che il baritono, piuttosto che il soprano, sono soggetti, è una pratica che io reputo discretamente incivile, però è un'abitudine che è consolidata negli anni, nei decenni, stavi per dire nei secoli, quindi insomma non mi stupirei poi in misura così eccessiva. Comunque sentiamolo Seedorf, visto che abbiamo un lungo frammento tratto anche questo da Sky. Io credo che non sono tutti, allora non possiamo generalizzare, però sono troppi che non capiscono che devono venire qui a star dietro la squadra, specialmente nelle momenti di difficoltà, che è questo momento del Milan, perché il Milan ha pochissimi giocatori a disposizione in questo momento, che specialmente avanti. In generale devono stare dietro la squadra, non devono venire qui a fischiare per qualcuno sbaglia, perché nessuno sbaglia a posto. Nei miei confronti sinceramente mi sono stufato già qualche settimana fa, perché non credo che sia giusto per qualcuno che è sempre a disposizione giocando ancora un altro ruolo per aiutare la squadra, viene dato così poco credito. Io sinceramente, non, visto che mi è sollecitato un parere, così lo butto lì. Credo che sia uno di quei casi in cui più o meno hanno ragione entrambi, più o meno, nel senso che Seedorf ricorda giustamente che è vero che lui è un pupillo di Ancelotti, ma è vero anche che sta cambiando ruolo in continuazione a seconda delle esigenze della squadra, e non c'è dubbio che cerchi di fare il meglio che può. Non è certamente il tipo di giocatore che va in campo senza dare tutto quello che ha. È vero anche però che c'è per il pubblico il diritto al dissenso, ed è altrettanto vero che non sempre una tifoseria, anche una tradizionalmente legata alla squadra a filo doppio come quella del Milan, non è contrattualmente tenuta a sostenere la squadra a prescindere nei momenti in cui la squadra non la convince. Insomma, diciamo, una di quelle questioni di lana caprina, no, su cui siamo specializzati noi, giusto per dare aria alle tonsille. Floriano ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, pronto? Dica. Sì, buongiorno, sì. Ho chiamato in riguardo all'episodio di Mutu, perché stamani ho letto sopra la Gazzetta la Fiorentina vince senza fair play o qualcosa del genere. Ora io mi chiedevo, ma è davvero così, oppure il fair play è mancato nei giocatori del Chievo, che ogni volta venivano toccati stavano a minuti in terra per aspettare poi i sanitari e poi ritornare a correre nuovamente? Cioè, molte volte si dice che chi non si ferma va contro il fair play, e non si dice mai che invece chi sta in terra e se ne approfitta di una situazione manca di fair play altrettanto e forse ancora di più. Floriano, faccia lei, insomma, faccia lei. Se è il Chievo che ieri ha mancato di fair play, per carità, sarà stato il Chievo. No, io ricordo strepiti per l'azione del primo gol del Lione in Coppa, quando restò un giocatore della Fiorentina a terra e quello tenne in gioco. Quello era un caso limite, intendiamoci, non paragonabile a quello di ieri, perché era un caso molto estremo, però era un caso estremo, se vogliamo, e quello di ieri invece non, certamente non lo è. Ricordo però anche le lezioni di fair play che arrivarono da Firenze in quella circostanza da parte di tutte le componenti della società. E dato che ricordo soprattutto, al di là di quell'episodio, non tanto le lezioni ma i begli esempi di fair play e di eleganza che la Fiorentina società, guida tecnica e squadra, diedero lo scorso anno, non posso non notare quest'anno una preoccupante involuzione in questo senso. Prima ancora questo dell'episodio di ieri. L'episodio di ieri è un tassello in più che oltretutto non mi sorprende tanto dal punto di vista del fair play, perché si può benissimo continuare l'azione come la Fiorentina ha fatto. Il problema è un altro, il problema è che un arbitro non può non vedere un fallo così netto a metà campo quando è esattamente a tre metri da dove il fallo viene commesso. Quindi è inutile prendersela con i giocatori che non si fermano, prendiamocela con un arbitro che insomma, avendo avuto in precedenza un paio di episodi di dubbi su cui non se l'era sentita di concedere qualcosa alla Fiorentina, e nello stesso tempo era stato messo in croce dai giocatori della Fiorentina con proteste plateali alla Inzaghi derby, per capirci, a quel punto ha lasciato correre l'azione per evidente e palese mancanza di personalità. Secondo lei quanta pazienza porterà ancora Ancelotti prima di lasciare? Domanda Dario. Ma io credo che di pazienza Ancelotti abbia una scorta pressoché infinita. Certo, questo momento particolare mi sembra un po' il capolinea di questa avventura milanista. Credo anche da parte sua, ma certamente non nasce da lui questa intenzione, che ha visto che Ancelotti ha più volte espresso il desiderio di restare e di restare a oltranza alla guida del Milan. Mi sembra che stiano maturando i presupposti per una separazione, non so quanto consensuale, e questo credo che sia anche uno degli argomenti principali del giorno, che verranno poi sviluppati, immagino, dai vostri interventi. Da Brescia ha chiamato Giulio, buongiorno. Buongiorno Gigi, piacere di sentirla. Grazie. Tre cose al volo. Io sono un tifoso milanista. Gli episodi di ieri credo che cancellino un po' tutte le critiche della settimana, nel senso che il gol del Milan secondo me è irregolare. Il gol del Milan secondo lei era? Irregolare. Ah, ecco. No, mi era mancata una ir all'inizio. No. Irregolare. Inzaghi dovrebbe imparare dai due giocatori del Cagliari che gli hanno fischiato fuori gioco che non c'erano, hanno protestato. Già. E questa è la prima cosa. Già. Seconda cosa, i tifosi di sia Napoli, Genoa che Milan, insomma, mi sembra un po' di critiche gratuite, nel senso che Milan l'ultimo trionfo l'ha avuto a dicembre. Napoli e Genoa fino a poco tempo fa erano in Serie C. E credo che probabilmente un po' l'altezza delle classifiche gli manchi un po' d'ossigeno a certi tifosi. Un'ultima cosa, un saluto a signor Cannavò, perché io ho 44 anni, sono un lettore della Gazzetta accanito, ora lo sono sporadico, visto che non mi piace più a partire dal formato e dai titoli, che direi a volte molto imbarazzanti. Faccio un esempio, vedi, Milan non lo faccia per rispetto alla memoria di Candido, che per quanto per quanto appartenente ad un'altra epoca e ad un'altra scuola di giornalismo, comunque non gradiva proprio per l'amore totale che portava alla Gazzetta, non gradiva sul conto della Gazzetta nemmeno le critiche che lui stesso sarebbe stato il primo a fare. Arrivano molti messaggi dedicati al ricordo di Cannavò. Paolo da Modena scrive: grazie Candido, mi ha insegnato che lo sport ha un'anima romantica. Fabio da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Si sente? Certo. Sì, tanto complimenti per la trasmissione, che l'ascolto sempre. Bon. Io volevo chiederle prima una cosa solo sul Milan, adesso volevo dirle due cose. La prima sul Milan è che io sono un abbonato del Milan, sono andato anche ieri a San Siro a vederlo e mi dispiace molto il trattamento che ricevono certi giocatori come Seedorf, che comunque credo siano stati i principali artefici delle vittorie del Milan che ha avuto fino a dicembre dell'anno scorso. Mm-hmm. Mi spiace molto perché è un giocatore che ha sempre messo la faccia sia nel bene che nel male della squadra, e credo che ieri sia stata l'ultima partita che sono andato a vedere del Milan, almeno per adesso. Per un po'. E la cosa che volevo dirle è che i giornali a volte mi fanno un po' arrabbiare perché mettono in prima pagina delle foto tipo il gol di Adriano nel derby, che secondo me per un arbitro non era facilissimo da vedere, anche se era da annullare, e poi non mettono una cosa scandalosa come ieri a Firenze, un fallo che poteva anche fare male a un giocatore, perché comunque entrare con un ginocchio sulla schiena, io che ho giocato a calcio so che fa molto male, e alla fine diciamo ne parlano nelle terze, quarte e quinte pagine, quando quelli sono gli errori che veramente bisognerebbe far vedere di arbitri, perché sono errori che stanno alla base della preparazione di un arbitro, credo. Arrivederci e grazie. Credo anch'io. Credo che non aver visto ieri la scorrettezza a metà campo da cui è venuto il gol della Fiorentina e non aver visto la spinta plateale, volgare, proprio da avanspettacolo di Inzaghi, siano due errori molto gravi. D'altra parte, non, credo che Brighi mi sembrava un arbitro promettente agli esordi e poi ha avuto qualche disavventura. Saccani a San Siro. Saccani era stato forse, anzi senza forse, il miglior arbitro della stagione scorsa, ma quest'anno ha rapidamente disceso i gradini anche della stima che Collina aveva di lui, perché sinceramente non è il suo primo errore, ma mi pare che ormai sia un lungo periodo che a ogni uscita corrisponde almeno una cantonata. È stato fischiato Pavarotti, figuriamoci se non si può fischiare Seedorf, scrive Luciano da Bergamo. Leonardo ha chiamato dalla provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto volevo unirmi anch'io al cordoglio per il direttore Cannavò. Poi volevo un po'. Pronto? Dica, Leonardo. Sì, cambiando un attimo argomento, volevo parlare un momentino della Juventus vista a Palermo. Penso che, ma volevo un suo parere in questo senso, penso che giocare solo così con tanta forza fisica, ma ho visto poi poco gioco in realtà, forse potrebbe non bastare per il Chelsea, lei che ne pensa? Ma bastare o non bastare, sai, è difficile dirlo perché sono partite completamente diverse. Io credo in generale, mi pare, lo dico no, no, non riferito ad una squadra delle tre, lo dico in generale, mi sembra che ci sia un po' di illusione globale sull'esito di queste tre sfide, rispetto al 20 dicembre, grosso modo, insomma, a quei giorni del sorteggio in cui uscirono queste tre partite, questo trittico di confronto diretto, credo, insomma, allora si disse che erano, non dico sfide impossibili, ma quasi. Adesso mi sembra che poco alla volta siamo arrivati, che le tre squadre italiane sono favorite. Ora, io credo che ci fosse un minimo di esagerazione allora, nel senso che non erano sfide impossibili, ce ne sia qualcuna forse anche di più adesso, perché ritenere favorite le tre italiane mi sembra un tantino troppo. Il problema, visto che lei mi parla di Juventus, credo che il problema della Juventus con il Chelsea, rapportato alla partita dell'altra sera, ma diciamo in generale la Juventus di quest'anno, sia questa. La Juventus ha una freschezza, una voglia e un coraggio proprio di battersi in assoluto che il Chelsea in questo momento non ha. Però la Juventus commette 3-4 tra ingenuità ed errori abbastanza gravi per partita. E credo che questo in campo internazionale ad alto livello si rischi di pagare, o si paghi ben più caro di quanto non possa accadere in campionato. Questo a grandi linee. Torniamo alle voci, in attesa di altri vostri interventi all'800 24 00 24. E sentiamo una proposta che Collina ha anticipato stamane a Radio Anch'io Sport su Radio 1. Sentiamo. Volevo approfittare proprio del titolo sul cartellino arancione. Sabato all'International Board, che è l'organo preposto alla valutazione dei cambiamenti delle regole, parlerà proprio di una sorta di cartellino arancione proposto dalla Federazione Nord Irlandese, che è l'istituzionalizzazione del sin bin, cioè di un'espulsione a tempo, proprio per quelle situazioni per i quali il cartellino rosso è forse un po' troppo e il cartellino giallo è troppo poco. Ecco, questo indubbiamente è uno di quei è l'innesco di uno di quei dibattiti su cui il popolo del pallone è destinato a esibirsi e comunque a spaccarsi. Collina mi sembra favorevole a questa innovazione. Per esempio, mi sembra molto contrario invece Paolo Casarin, che nella sua rubrica di stamane sul Corriere della Sera, visto che di questo cartellino arancione si parla e all'ordine del giorno, avete sentito, per la riunione dell'International Board, titola: il cartellino arancione è il segno dell'indecisione. Dice anche: i falli gravi, scrive Casarin, da rosso diretto sono spesso coloriti fino a trasformarsi in giallo, e si dice era arancione. Arancione è il colore della non decisione, e anche questa è una, insomma, io credo che sia forse la chiave interpretativa più corretta, più felice. Evidentemente può anche darsi invece appunto che l'International Board valuti in maniera diversa. Sentiamo ancora un ascoltatore prima dell'intervallo. Giancarlo ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Sempre sull'argomento fischi a San Siro, io farei una distinzione tra i fischi a Seedorf, che mi sono sembrati ingenerosi perché comunque è un giocatore che non li merita, anche se qualche volta, ma non era il caso ieri, era stato un po' indisponente, ma assolutamente quelli sono stati ingenerosi. Invece i fischi a Senderos e ad Ancelotti. A Senderos, che per l'amor del cielo non ho nulla contro di lui, ma non ha troppo i piedi buoni, i piedi un po' quadrati, trovandosi la palla a metà campo aveva paura di giocare il pallone e l'ha passata indietro la terza volta al portiere, il pubblico ha fischiato. E ad Ancelotti, che è l'allenatore del Milan, gioca in casa contro il Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, che io personalmente ritengo una delle squadre migliori del campionato, però stai vincendo 1-0, tiri fuori l'unica punta che c'è in campo per mettere un centrocampista per tenere l'1-0, allora non diciamo più che San Siro è la scala del calcio, però se lei è l'allenatore del Milan non può fare una scelta di quel genere lì. Se lei è l'allenatore del Cagliari, sta vincendo 1-0 a Milano a un quarto d'ora dalla fine, toglie l'unica punta e mette un centrocampista e si capisce, ma se lei è l'allenatore del Milan una cosa del genere non lo fa, proprio per rispetto al pubblico che è abituato a vedere giocare il Milan, insomma, non una squadra. Giancarlo, la settimana prima erano entrati due difensori di ruolo nell'Inter per difendere il gol di vantaggio negli ultimi minuti del derby, eppure nessuno dell'Inter se n'era offeso, mi pare, no? Perché? Perché la partita è finita 2-1, mi immagino le critiche che sarebbero esplose, non deflagrate, direi, non semplicemente che si sarebbero sollevate se l'esito fosse stato diverso. È vero che il Milan è un po' meno abituato a questi stravolgimenti tattici, quindi posso capire un minimo di sconcerto, ma io credo che sui fischi al Milan e sui destinatari e sulla legittimità di questi fischi proseguiremo anche dopo. Ci mancherebbe soltanto il cartellino arancione, scrive Diego. Il cartellino arancione funzionerebbe per le grandi, possibilmente con le maglie a strisce, per le piccole sarebbero direttamente rossi. Ho pochi dubbi sul fatto che Diego abbia ragione fin d'ora. Poi, per carità, le intenzioni saranno magari diverse, ma sappiamo che delle migliori intenzioni era stricato che cosa? A grandi linee. Giovanni da Firenze, buongiorno. Buongiorno, veramente complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono poi quelli che ci fanno parlare. Io chiamo e volevo riparlare di Fiorentina Chievo. Sì. Premetto che era allo stadio, che sono tifoso della Fiorentina, quindi la vedo dalla parte mia. Sì, certo. Il fallo di Musu era evidente, andava fischiato, l'errore è lì. Volevo solo far notare che comunque durante tutto il secondo tempo più volte i giocatori del Chievo sono stati a terra e la palla era stata buttata fuori e poi miracolosamente sono rientrati in campo e correvano meglio di prima, e quindi probabilmente a forza di gridare al lupo, quando il lupo si presenta davvero voglia gridare, ma non è stato fatto forse perché c'erano stati dei precedenti un po' simpatici e poi secondo me anche un po' sportivi. Questo non vuol dire che il fallo non c'era e che quindi l'azione andava fermata. Mi dispiace perché per il Chievo è stata una beffa clamorosa, però purtroppo il fatto è questo, basta rivedere il secondo tempo della partita. Me lo risparmi Giovanni, anche perché in questo periodo non è che la Fiorentina sia sto grande spettacolo, no, qualitativamente. Posto della Fiorentina, mi dispiace anche dire che siamo stati fortunati ultimamente, ma noi non siamo abituati a essere fortunati. Se si continua a giocare così, mi corregga se sbaglio, ma credo che non si avrà grossi risultati. Ho l'impressione anch'io, questa mi sembra una riflessione da appassionato e da competente, ben prima che da tifoso. Questo mi pare oggettivamente vero. Poi magari un giorno o l'altro parliamo anche della congiura che i Della Valle avevano, la congiura arbitraria, i loro danni che i Della Valle avevano puntualmente denunciato 3 settimane fa. Raffaele da Napoli, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Ascolti, volevo chiederle una cosa. visto che il rapporto secondo me tra Rea e il Napoli ormai secondo me è concluso, cosa ne pensa lei se facesse il Napoli un pensierino su Donadoni? Grazie. Ma penso che credo che di pensierini il Napoli ne stia facendo in questo periodo e credo che già prima ne avesse fatti, però insomma, anche perché questa più o meno è l'epoca in cui si impostano le mosse per l'anno successivo, a maggior ragione se le cose non stanno andando bene come non stanno indubbiamente andando bene a Napoli. Donadoni è io credo che sia un bravo allenatore che prima o poi rientrerà in circolo e credo che rientrerà in circolo a livello di club, anche se mai dire mai, no? Quella di pensare a Donadoni potrebbe essere per il Napoli una buona soluzione, ce ne sono tante, insomma il ventaglio è ampio. Donadoni certamente di sicuro è una persona per bene e dato che quella panchina è stata occupata in questi ultimi anni da una persona indiscutibilmente per bene come è Edoardo Reia, credo che perlomeno questo sarebbe una scelta nel solco della tradizione, cioè di persone per bene. Benedetto da Vercelli, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Dica. Io esco un po' fuori dal tema, nel senso che non parlo dell'ultima giornata di campionato. È una domanda che volevo farle da diverso tempo ed è questa. Io non sono un tifoso di una squadra in particolare. Ho nel cuore l'unica grande squadra che è il Torino, specialmente per averlo visto giocare negli anni dello scudetto, dell'ultimo scudetto. Una domanda a cui non trovo spiegazione ed è questa. Come mai ci sono certe squadre come... faccio un esempio, l'Atalanta, l'Udinese, che restano in Serie A per diverso tempo, fanno una politica dei giovani talenti anche sconosciuti di altre nazioni, mentre il Torino ultimamente si incaponisce a comprare certi giocatori, di cui non faccio il nome perché non mi sembra giusto, che insomma non rendono, non danno poi alla squadra quello che effettivamente promettono, anche perché secondo me il tifoso del Torino sarebbe molto più disposto ad accettare una gestione all'Atalanta come l'Udinese, come non so, il Catania, il Genova, che piuttosto farsi riempire gli occhi da certi giocatori che non so, paiono un po' bolliti. Ecco, c'è una spiegazione di carattere amministrativo, contabile, di bilancio, oppure è proprio un'incapacità o una scelta di gestione tecnica? Ma non credo sia una scelta, nel senso che poi nessuno è così masochista da volersi far del male e da sbagliare puntualmente 4 acquisti su 5 come accade da anni. Credo che sia lei ha fatto il paragone con delle società all'avanguardia, cioè molto ma molto ben dirette, la famiglia Ruggeri a Bergamo, anche se adesso il testimone è passato nelle mani dei figli, ma insomma evidentemente sono dello stesso stampo del padre, si fidano dei collaboratori, evidentemente che è gente del mestiere. Mi pare che non sia la stessa cosa che accade a Torino. A Udine la famiglia Pozzo si affida da anni a gente del mestiere, anche in questo caso, e mi pare che a Torino non accada. Quindi è una... credo che sia, alla fine tutto si riduca a un misto di incompetenza e di voglia di protagonismo, insomma, credo. Poi magari ci saranno anche altre spiegazioni, ma credo che le principali possano essere queste. E a proposito, la congiura contro il Torino mi pare risalisse invece a 7-8 giorni fa. Ieri, se non l'ho visto male, c'era un bel rigoraccio per l'Udinese verso la fine, ma anche lì si vede che era finito il tempo della congiura nei confronti del Torino, che poi ricomincerà presto, come quella nei confronti della Fiorentina piuttosto che di altre. Dovremmo forse, questa è una mia mancanza, forse dopo tanti anni bisogna fare un borsino aggiornato delle congiure in corso, no? In maniera da sapere sempre come regolarci, insomma. Da Como ha chiamato Mino, buongiorno. Dica. Due cose velocissime. Sì. Prima, appunto, tornando sugli arbitri, ieri il Milan è stato probabilmente risarcito, si fa per dire, dei torti subiti nel derby. A parte, noi preferiamo che non perdiamo il derby, magari pareggiamo col Cagliari. Cioè, gli arbitri sbagliano due volte, secondo me, come al solito. perché ieri chiaramente il gol di Inzaghi era da annullare qualche fuorigioco per il Cagliari. Ma no, io non credo però Mino a un risarcimento, credo se pensassimo a un risarcimento smettiamo di occuparcene, no? Però diciamo una sorta di compensazione, ecco. Un'altra cosa poi Ancelotti con il Popò, tra parentesi, di giocatori che gli ha messo a disposizione la società, campioni tipo Senderos, Mattioni che è già infortunato, poi con tutti gli infortunati che ha attualmente, secondo me, premetto che sono uno che Ancelotti ha fatto il suo tempo al Milan, quindi sarebbe magari anche ora di cambiare per dare stimoli ai giocatori, però con quello che ha adesso Ancelotti, secondo me è assurdo criticare sia lui sia poi uno come Sedo. Grazie a lei. Io la penso esattamente come lei, trovo che sia assurdo e trovo soprattutto che sia quantomeno strano discutere la squadra di ieri quando le scelte erano obbligate, insomma, se ti manca l'intero attacco, perché ieri mancavano mi par di ricordare, insomma, spero di non dimenticare nessuno, mancavano Kakà, Pato, Boriello e Ronaldinho tra gli attaccanti, è chiaro, Shevchenko lasciamolo pure perdere, ma è chiaro che a quel punto arrivi a Inzaghi e se nel finale di partita Inzaghi ti sembra stanco perché tutto quello che aveva nel frattempo l'aveva dato, beh, insomma, non mi pare reato sostituirlo con un altro giocatore, anche se non può essere più un attaccante. Da Verona c'è in linea Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo fare una riflessione velocissima su Fiorentina-Chievo di ieri. Dunque, io ho visto la partita e ho trovato quantomeno indegno quello che è successo a Firenze. Parlano tanto di fair play e sportività questi signori viola e dopo la fine io non voglio sindacare se Brighi doveva fischiare o no questo fallo. Secondo me sì, però voglio dire, il fair play qual era? Era quello di buttare fuori la palla a quel punto lì. Questo non è stato fatto, mi dispiace molto. Riguardo a quello che diceva brevissimamente, a quello che diceva prima il signor da Firenze, io ho visto anche, lui ha visto i giocatori del Chievo che cominciavano a cadere per terra, io ho visto Melo che ha continuato a provocare tutti in campo. Grazie, buona giornata. Ma Massimo, cioè, sia il Fiorentino che lei, ho l'impressione che abbiate visto abbastanza bene, nel senso che è vera l'una e l'altra cosa, ma lei mi insegna e lo sta testimoniando che quando si vedono le cose, si vedono con i colori sociali, no? E quindi rigorosamente. E quindi uno ha visto e ha accentato delle cose e l'altro ne ha viste inevitabilmente delle altre. Non credo, io personalmente non penso che la Fiorentina dovesse buttare fuori il pallone. Penso che l'arbitro dovesse intervenire per fischiare quel fallo. Di sicuro penso che la prossima lezione di fair play della Fiorentina magari la prendiamo con riserva. Ecco, e lo dico io per primo, perché un anno fa c'ero seriamente cascato. Per via, lo dico alla Toscana, che sono un po' grullo. Torniamo con l'abituale appuntamento dedicato al ripasso dello sport, degli avvenimenti sportivi successi in questa giornata. Dunque, il 23 di febbraio, Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 febbraio 1982. La nazionale di Bearzot inaugura con un passo falso l'anno dei mondiali in Spagna. A Parigi, la Francia, allenata da Michel Hidalgo, si impone in amichevole per 2-0. Mattatore assoluto della sfida del Parco dei Principi è Michel Platini. L'asso del Saint-Étienne al 19° sblocca il risultato superando Zoff con un gran diagonale e all'84° confeziona l'assist per il raddoppio siglato dal 19enne Daniel Bravo. Tra i giocatori schierati a Parigi da Bearzot, solo uno sarà poi escluso dalla trionfale spedizione spagnola. Si tratta del centravanti della Roma e capocannoniere della Serie A Roberto Pruzzo, per il quale l'amichevole con la Francia è stata la sesta e ultima presenza in nazionale. È vero, non cominciò affatto bene quell'anno, né molto meglio proseguì, per la verità, fino alla fase eliminatoria compresa, e poi avvenne la metamorfosi che credo tutti ricordino e che resterà scolpita nel tempo. Grazie Candido, scrive Vincenzo, la tua gazzetta era davvero a colori. Sentiamo qualche altro contributo vocale dalla giornata di ieri. Per esempio, visto che molto se ne è parlato, l'opinione di Prandelli sul gol della vittoria di Mutu. L'arbitro è a un metro, non ha fischiato, e se stiamo a guardare i falli molto probabilmente anche noi avremmo qualcosa da dire. Ad esempio il gol loro sul calcio d'angolo, c'era un netto fallo su Kodrup. Chiaro che dispiace vincere così quando c'è un uomo a terra, però dobbiamo anche, l'arbitro è a due metri, dobbiamo anche renderci conto che molto spesso si fa anche qualche furbata, perché se non sbaglio lui guarda, adesso alza la testa, guarda cosa sta succedendo e poi rimane a terra. Dispiace vincere così, però io sono d'accordo con Capello, l'arbitro deve fischiare e bisogna continuare, dobbiamo per forza di cose andare avanti così. Ma io non so se dobbiamo per forza di cose andare avanti così, anche Prandelli comunque una involuzione l'ha subita in questo anno, e questo mi dispiace anche più del resto, cioè degli altri personaggi che nel frattempo hanno fatto qualche passo indietro sul piano del fair play, e ricorderei che fair play non vuol dire buttare fuori la palla. Garanzini, lei dovrebbe decidere, scrive Pietro da Abbiategrasso, da quale parte stare. Io mi ricordo dopo Liverpool-Milan 3-3 che per lei Ancelotti era l'unico tecnico che poteva perdere una partita del genere. Adesso è forse migliore, sono in grado i fischi. Pietro, no, non mi faccia andare a ripescare la registrazione di allora. Io fui uno dei pochi, non dico l'unico, ma uno dei pochissimi invece a sostenere che non c'era nessuna responsabilità in quella partita da parte di Ancelotti. Poi se vogliamo ritornare alle guerre puniche, siamo sempre liberi di farlo, però non a patto di stravolgere le opinioni. È impossibile quello che lei mi input. Luca da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire riguardo a una cosa, ho sentito del cartellino arancione. Sì. Brevissimamente. Sembra che sia un'idea della federazione nordirlandese. Adesso, cioè, non lo so, secondo lei può un cartellino arancione che può aiutare, insomma, in questo momento di grandissima confusione, diciamo così, degli arbitri, e poi un ritorno, si lamentava un ritorno al doppio arbitro, non so se ricorda, qualche anno fa è stato fatto in Coppa Italia, mi pare. Sì. E poi si è visto, insomma, poi come è andata a finire, perché uno sbaglia benissimo da solo, in due secondo me si sbaglia meglio, e poi non lo so, cioè il cartellino arancione secondo lei risolverà i problemi a cui ogni domenica. Sì, Luca, dunque, intanto il doppio arbitro non è un doppio arbitro, nel senso che è un triplo arbitro, perlomeno questa è l'idea di Platini e questa è l'idea che si discuterà. Non l'esperimento a cui si riferisce lei in Coppa Italia qualche anno fa, parecchi anni fa, è vero, significava la, come dire, la lottizzazione, no? La destinazione d'uso di metà campo a un arbitro e metà campo a un altro. Con inevitabile, questa era un'idea di Boniperti, tra l'altro, è impraticabile a parer mio, e lo dimostrano infatti, perché l'arbitraggio è anche una cosa soggettiva, inevitabilmente, e quindi si finiva per avere un parametro di valutazione in un metà campo e un altro parametro in un altro. L'idea attuale, invece, quella che Platini ha suggerito e che probabilmente, o comunque si pensa, si spera, io spero che possa andare. Possa diventare esecutiva, è il triplo arbitro, cioè rimane un arbitro giudice di gara unico, viene istituita la figura di un giudice di porto o di un giudice d'area, più probabilmente dietro ciascuna delle due porte. Quindi questa mi sembra una cosa abbastanza diversa. Il cartellino arancione, così vado a naso, vado a spanne, mi sembra che aggiungerebbe soltanto confusione, e quindi, essendo una, a parer mio, una pessima idea, ha ottime probabilità di essere introdotto. Da Milano ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Una cosa rapida circa il mio parere sulla crisi del Milan. A prescindere da quest'ultima partita, che era chiaramente emergenziale, quindi non si può tanto discutere su questa, ma pensiamo a Milan-Regina di non molte domeniche fa. Una delle prime contro l'ultima in classifica. Si scopre, l'allenatore scopre a distanza di qualche mese, che manca l'uomo forte in area, il centravanti che sarebbe in grado di sbloccare le partite quando le piccole vengono in assiro e si difendono in 10, 11, quanti sono. Rilievo che uno stupido come me e moltissimi altri avevano già fatto quest'estate in sede di campagna acquisti. E non solo quest'estate, anche da anni, perché il Milan non vince più lo scudetto da un sacco di anni. Perché avendo sposato la teoria della differenza, che conta quasi esclusivamente solo la Champions, contro le piccole il Milan non riesce più a esprimere il gioco che deve esprimere, perché perde concentrazione e non ha gli uomini giusti. Ergo, Ancelotti, che in sé non dovrebbe tutto sommato tanto fischiato o criticato in quanto fa la squadra con i giocatori che ha, è stato colpevole, tra virgolette, laddove quando c'è stata campagna acquisti non ha cercato di imporsi con la dirigenza, la società, dicendo ho bisogno di un giocatore di queste caratteristiche, leggi per esempio Mauri, punto. Il che significa, in buona sostanza... Il che significa che al Milan comanda qualcun altro, Marco, senza stare a farla tanto lunga, lui fa l'allenatore con quello, ha detto bene lei prima, fa l'allenatore con quello che gli mettono a disposizione. Non credo, io trovo che Ancelotti sia bravissimo a farsi andare bene tutto e a trovare il modo di pensare positivo, non so come dire, no? Anche quando gli rifilano le sole o quando esagerano con le figurine. Poi è ovvio che ogni tanto è ovvio che i problemi poi ricadono su di lui, perché c'è chi può sbagliare che è lui e c'è chi non sbaglia mai che magari sono altri. Tenendo conto di tutto questo e della passione, dell'affetto, della dedizione con cui Ancelotti si è legato al Milan in questi anni, io complessivamente questi fischi li trovo abbastanza ingenerosi, ma ingenerosi, non scandalosi, perché da che mondo è mondo, come ricordava un ascoltatore di prima, si fischia un tenore che sbaglia una nota, quindi si immagini se non si può fischiare un giocatore che manda una palla, oppure un allenatore che si ritiene abbia fatto il suo tempo. Poi, se parliamo di aver fatto il suo tempo, Ancelotti l'aveva fatto 6 anni fa al Milan, perché voglio dire, un po' di memoria, a differenza di quello da Abbiategrasso prima, io ce l'ho. È ancora lì e mi pare che in questi anni se la sia sfangata, no? Con un certo decoro. Nunzio, provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vorrei chiederle gentilmente se mi può fare, io sono un tifoso viola ovviamente, quindi mi riferisco alla partita di ieri Fiorentina-Chievo. Sì. E mi spiace per quanto è successo, anch'io sono dell'idea di Prandelli di non essere molto felice di ottenere vittorie in quella maniera, però vorrei che lei dall'alto della sua esperienza mi facesse un parallelo tra quello successo ieri e quanto successo a Lione nella prima partita di Champions League. Dove la Fiorentina subì un tocco. L'ho già fatto prima, Nunzio, e non possiamo andare avanti a ripetere delle cose. Il caso di Lione era un caso limite, quello di ieri era un caso assai più normale. L'errore di ieri l'ha commesso l'arbitro, così come l'aveva commesso lassù, ma quell'errore là era certamente più grave. Grazie anche a lei, grazie a tutti gli intervenuti, a Laura Vanossi per il prezioso aiuto in redazione e a Filippo Aureggi in regia. Appuntamento a domani, Giornale Radio.